Pronto? Sì, caspita, bubu. Dormito, sì. Oh, riassorbito. Buonasera, come? Buonasera, arrugito, sì. Sei un po' carino. Sono drumbi dall'acqua, stai luce. Ah, senza ragazzetti. Dai, dai. E allora, dove eri di oggi? A fare un po' di... che cose? E a chiudere. A fare un po'? Cose in giro. Ah, in giro, a fare commissioni, cioè, va bene. A me se l'hai fatto, stimato. Anda. Ui. Va. Ma uscendo? A voglia, più forte di me pure. Addirittura, più forte. Sono qua più fatti, cosa mi dici? Ma i nostri vicini già sono abbondanti. Perché siamo vicini, là. Siamo vicini, so, ecco perché. E infatti, 4 watt già ci bastano a noi, vicini. E poi con 4 watt arriviamo anche fuori. A voglia. Non c'è bisogno di mettere potenza nei miei. Oh, ma chi non mi piace la radio? Quello è un mini. Cazzo, boh, cazzo. Ma allora mi piace la farina. Grazie a Dio, cazzo. Boh. Se mi sono girato in busciacca, andava benissimo. Va bene, ma rimane troppo cupa e basta la radio, cazzo. La voce sua, Ah, che va sentito altre volte, bello, pippante, che la... è un po' boh, cazzo, boh. Non è manco un microfono se ne boccavata anche lì. Sembra che si avvicina un microfono. Sì, tu è. Ah, non si può pure il microfono. No, nulla da fare, perché c'ha il coso che cambia i canali dal microfono. Vabbè, questo non cambia il canale dal microfono. Anche il tuo cambia il canale dal microfono. Questo no, questo non ce l'hai, il coso di cambiare il canale dal microfono. Ah, no. Questo è questo. Quello lì è un'altra cosa, dai, quello è un apparecchio a vivo, dai, è una radio bella, pulita, va bene, ma quel battito, vero, non mi piace veramente, non mi piace, gatto, appigliavo questo apparecchio, gatto, ha voluto provare, ha detto che l'ha voluto provare, ma se l'ha preso più che altro per la macchina, se l'ha preso perché è piccolino e ci sta dentro al coso delle sigarette. Se li piace a lui. Ha detto che già se lo prende un altro se lo prende più grandetto, o tipo questo come c'ho io, o tipo il tuo, se ha detto che si prende. Ma infatti allora, è così che la prendo, sono là, sei in casa, e quello che alchire per la macchina. È bello veramente. Oh, è che quell'altro cazzo mi piace tanto, insomma, mi piace veramente. È soffettivo, cazzo, però è bello, eh. Ma tra cose e tutto dove ne di più. Ah no, tra spedizione e tutto, cento figli. Tra spedizione e tutto, perché 109 e 90, più 10 euro di spedizione, 120, dai. E ce l'ha accanto, ma quello è un apparecchio bello, l'hai visto? Ma quello è bello, cazzo. Com'è che non mi ricordo? Non mi ricordo. Ah, dice che è M190. Cazzo, è bello, eh. Dice che è M190. Aspetta un attimino che lo controllo a vedere. È perché c'è anche 95, c'è uno anche 95, però quello 95 c'ha 20 watt e non conviene quello lì. Conviene prendere il 90 che c'ha 4 watt ed è bello, veramente bello, prova a guardare. Come mi ha detto che è M190, così. Esatto, M100. Aspetta, sto sbagliando io. Aspetta un po' l'occhiale. Allora, Intercam 4,90. 4,90, aspetta. Cazzo, è bello, poi è più grande, cazzo, già si vede, cazzo, che è un apparecchio bello, dai. Guarda, ragazzi, cazzo, 19,99 per due. 119, no, ma Giammarì, è solo in AM quello. Oh, che c'è, AM FM. Io ho visto cosa, è solo AM, c'è il tasto solo AM. Adesso te lo guardo, torna io, dammi 5 minuti che lo faccio vedere io, Tanto sono attaccato al computer, un attimino. Vai. Perché precisa quello di 4,95, è preciso, capito? Solo quello 95 mi sembra che ci sia, che è 20 watt, capito? Mentre questo di 4,90 è 4 watt, capito? Ma quello è a cosa? Offerta, Mi ha mandato direttamente a cosa? Offerta. Offerta. Ma lì si lo pensa, se uno può pigliare, lo può pigliare direttamente. Oh, lì deve puntare al coso più alto, hai capito? Come quello è, se offri di più, se ci riesci ad arrivare sino alla scadenza, e tu dici no, già 30, 119, già, tu devi offrire ancora altre 20 per poter giudicartelo. Vabbè, quello lì è un privato, quello è. Lo stesso quello di 95, guarda quello di 95. 109 mi dà a me, ce ne sono due solo, quello di 109 anche mi dà, che è la stessa cosa. Allora, ce n'è uno, penso, come uno a 195 e 190, cioè guardate poi 190, ecco, tu guarda quello M195, da vedere un po', che ce ne sono vari, là. M195, aspetta un attimino. Ehi, Mari, sei sicuro che sia M195? E mi aspetta che l'ho aperto io adesso, te lo dico subito com'è, dai. Otto. Sì, a Gianmari. Eccolo qua, ho visto, dice che è 4,95. Sì. E quello a 20 watt, però 20 watt rimane con la modifica, si può fare la modifica gratuitamente, capito? Se no è normale e sono 4 watt, capito? Aspetta che me lo guardo, perché mi avevi dato poco fa, mi avevi dato 195, invece è 4,95, aspetta un attimino. Guarda, ce l'ho davanti. Gianmarì, uno solo me ne dà, dentro la scatola solo mi dà. Costa 120 e più 8 euro di trasporto. Esatto, già è quello, sì. Infatti, questo è 120, sì, più 8 euro di trasporto, sì. Ma quello lì, diciamo che quello è però 20 watt, però essendo quello con la modifica, senza modifica, quello si dà, se mi dice bene le funzioni, sono 4 watt, capisci? Lo so. Se lo fai a coso te ne porta a 20. Infatti, è bello quell'apparecchio. Ed è a Genova. Non l'ho letto dove, stavo guardando le caratteristiche. È modificabile, è coso che se le porta a 20. Ma come è modificabile? Va quella a 400 canali, visto? Lo so. Fa 400 canali, ma devi educarci anche, ma fa farla andare. Vedi, tocca lasciarlo così. C'ha un sacco di tasti, un sacco di cose, c'ha. Poi perdi l'omologazione, buonasera. Giaro Grillo, buonasera. Quello è normale, ma è omologato con l'articolo di posto di telecomunicazione è tutto a posto, capito? Sì, ma se lo docchi non è più a posto, come ci stava dicendo, mamma mi subito il nome, andava... ma infatti, c'è scritto che è omologato, capito? Sì, già lo so, già l'ho letto. Ah sì, c'è... ma... non mi ricordo il nome. Ehi, se vi ti ascoltava, sono andato a salutarvi. Ciao Giammarì, ciao Otto. Loro Duca, che poi per l'omologazione, meglio lasciarlo così, non si sa mai. E ti va in un controllo e si appunto. A me mi era successo anni fa, ma tanti, tanti anni fa, che avevo comprato un baracchino, l'avevo modificato. Allora c'erano i controlli a gogo e se l'avevano portato via perché l'avevo toccato, capito? Ciao Giammarì, buonasera. Ma va benissimo, già li ho visti, sono perfetti. No, ma in questo momento non conviene modificare nulla, intanto. Guarda, ieri che vedo già devi modificare. Avremo due canali a disposizione, lascia perdere. Riprendi tu, che mi sto medicando un dito, mi sono fatto male, semmai entro dopo, va. Già siamo qua. No, io... ma lo son preso, ce l'ho qua, per 40 ganari, finché truppo, a Puglia, catta. Niente che M899, si può mettere l'auricolare per la macchina e si è libero senza toccare il microfono. Va bene, ma prendi un po' posto. È bello per la pena, perché in macchina che accade. Ma prova a fare il nome di questo, che se no quello che ha preso, mi direi il piccolino occupato da fuori, non è molto grande anche quello che c'è, e va bene anche in macchina, e sta a fare il nome di questo, tanto che si costa però più alla cava come perché è omologato, 40 canali a essere, è bello, ed è quanto quello che stai dicendo. Vabbè, Bacchiglio, si era pigliato con una catturetta. vabbè, devo dire, già è super Roma stessi, cioè, se lo lascia come gliel'ho lasciato io, esce benissimo. Oh, quello va bene, dai. Ma io ho sentito attento la stessa cosa, e occupa la radio. C'è sul microfono va, non altro. Si chiama microfono e buh. Ormai la fine è la sua figata. E va bene, se va bene lì, va bene anche lì. Sta riuscita a capirlo anche se non è chiara che me la fa là. Il microfono è quello, bisogna vedere che anche che il capo se l'hanno messo. E poi già sta cercando di cambiare il microfono, e il capo ha per il capo. È un Midland, è un mini. Che ve lo guardo, fammi vedere che sale, dimmi la sigla. Midland M Mini. Aspetta, M Mini. Allora, scritto la M. Poi ci mette Mini. Mini? Sì. Che vuol dire piccolo. Scritto Mini. Midland. Sì, della... metti così, nella sigla. E aspetta, lo guardo. Eccolo qua. Ma che minuto. Io sto guardando su YouTube, lo sto guardando. E là che sono in macchina, il minorito, minorito. Va. È piccolino, piccolino, ragazzi. Dalla proprio vicino alla parte di sopra, di fronte sta quello di cambiare il canale. No, nel coso con il microfono, sopra il microfono devi cambiare il canale. Solo dal microfono? Sì, solo dal microfono, non c'è altro. Gli altri tasti sono Mikey Gay, poi c'ha questo interruttore, il volume e un'altra cosa va sopra l'interruttore che non so come già dire. Infatti, quello che gli ho detto anch'io, come ti mai si è andato a finire a pigliarti di su, che hanno venuto i più belli pure, e vabbè, ce l'ha scelto lui, io non ci sto a dire nulla. Oh yeah! Forse batterà anche il figlio, no? È andato avanti. Buonasera Marco. Buonasera a tutti. Cos'è successo? Ditelo a me. Sempre di apparati CE. Che poi io una cosa non ho capito. Questa targhetta CE, tipo 0678 e simili, ce l'hanno anche gli apparecchi non omologati. Non sto capendo niente. Comunque, basta che siano 40 canali MFM, di solito sono omologati, multibanda, insomma. Però questo marchio c'è anche, ripeto, su quelli non omologati, tipo 400 canali. Ho visto le foto su internet e c'è la stessa identica targhetta che tu, lo sai. Cioè devono corrispondere a una normativa, però poi per essere omologati devono essere 40 canali, tutto lì, con 4 watt. No, non è così, c'ha un numero, guarda che c'ha un numero di sigla che gli mettono per essere omologato. Ma anche quello stava la cassetta che era un po' locato, però è andata a 40 canali quella cassetta. Perché sei così basso, Giomarì? Perché sei così basso di segnale? Basso, da fumula. Memi? Senna. Santiago 9, sì, tuo segnale 920 qua. Ciao Marco. Già sono qua, dai, che mi sto sistemando sto dito e poi rientro. Tre passi e mezzo mi sto dando, tre passi no, quattro passi, esattamente. Giomarì, io vedo oscillare il segnale, deve essere il vento. E qua anche avanti, boh. Non va più di questa casa, quattro watt, dice 4 watt, ma boh. Sì, già è 4 watt. Però non lo so, il vento magari sta muovendo qualcosa. Dimmi Torre Squalo, ciao Claudio comunque. Quel numero che tu vedi dovrebbe essere il numero di serie dell'apparecchio, non numero di omologazione. Sui miei è sempre il numero di serie. No, lascia stare, io guardo la targhetta che c'è dietro. C'è, oltre a c'è un altro numero di sigla, quello lì, quel numero lì è quello della emulazione che mettono loro. Oh, adesso guardo. Abbasso veramente solo. Ti sei abbassato comunque, anche io me ne sono accorto che ti sei abbassato, non vado a badare tanto, ma ho visto che prima non arrivi a 9:10, 9:15, avanti ci arrivi no 9. E poi ti arrivi a punto, a parecchio punto. Ah, parecchio magari non va nulla, magari l'antenna mia, no, che non sta tirando più di tanto. Con quanti watt sei, dottore? 4 watt. 4 watt precisi e precisi. Sei 9:15 e Gianmaria è 9. Non ho mai sentito così. Mi gioca sul cade, lo controllo e gli ha detto, ma l'antenna attaccata, Ronghie, è tutto a posto, perché Marco segnale su, è giusto. E c'è Mari, devi arrivare 9:20 tu. Sei 5 dB più alto di Tore, da sempre, capito? Sei quello che più o meno mi arrivi come mi arriva Luca Flipper. No, ma sei 9. Aspetta, vediamo un po'. Ma lei ci hai commutato l'antenna, io non la prima volta che te sul tessio. Sì, allora Tore, guarda che da me dietro c'è prima il CE0341, poi c'è il nome del produttore, capito, Malaysia, eccetera, bla bla bla, e poi in un'altra targhetta c'è serial number, c'è scritto serial NO, vuol dire numero, serial number, e c'è il numero di serie però. Almeno per questo, poi gli altri non lo so, non me lo ricordo. Vabbè, il numero di serie che loro lo fanno per coso, per darti un numero di omologazione, quello sarebbe. No, il numero di serie cambia, per ogni apparato è identico, almeno, poi non si sa che pasticci fanno al MISE. Vai Claudio. Io ce l'ho la 48, nuovo, ancora dentro la scatola, però... Non è a norma, c'è, non c'è niente, c'è il numero omologazione, c'è omologazione numero e il numero seriale della radio, basta, non c'è nessun'altra cosa, peccato, comunque io lo tengo perché quello c'è in concessione, chi su l'ha, qui me la futta sé, quello vabbè per noi radio Mattoli è un po' diverso per lo statuto a come si dice Marco, aiutami, a livello di sperimentazione, quindi non me ne ha fottuto. Vai Giamari, fammi vedere il segnale. Okay, si è aumentato? Sì, quasi di 5, però non è sempre il tuo segnale. Adesso sì, 9 più 5. Aspetta che muovo l'antenna. Ti dico così, boh, sembra tutto a posto qua, boh. Non so, non è il tuo segnale comunque, niente di grave, niente di che, stai andando più che bene, però mi hai perso un po', ti hai perso un po' il segnale per strada, capito? Non lo so, cosa è successo, però non è il tuo solito segnale, dai. Va bene, non ti preoccupare, controlla beh tutto, se è tutto a posto vuol dire c'è qualche PL magari che sta perdendo contatto. Vai Tore. Da me si è passato da 9 a 9,5, si è andato. Se di una tacchetta di 10. Aspetta, c'era un PL distaccato, mollato. Sì, c'era il PL mollato, dai. Vedi un po' adesso. Ehi, Avaci 9:25, questo è il tuo segnale. C'era il PL, grazie. Come c'è un disviatore io, no? Cioè, si vede che non l'avevo avvitato bene, mi ha fatto a svitarsi. Adesso già a posto allora. Alla grande, 9:25. Addirittura, va bene allora. E mi stavo già assustando. Ehi, ragazzi, un attimo, riprendete che mi si brucia la zuppa, dai. Zuppati. Ma siccome una volta ti è successo, Giovanni, che stavi parlando la rovetta, gli ho detto, ma a chi seguisci in basso? Oh, vai zitta, che ci usa l'antenna, e ti hai dimenticato di commutare l'antenna. Ehi, siccome la zuppa ha parlato il buccio, sì che è vero, l'ha già attaccato il CBL così, e non, si vede che non l'ho stretto bene, strano però, perché ieri stava andando bene, mi sembra, non mi ha detto niente. Giomari, ma se tu parli con i tuoi vicini, se ne accorgono poco, io da qua ti posso dare notizie più certe, mi accorgo dei vostri segnali se c'è qualche problema, capito, perché sono lontano. Comunque va, è tutto a posto, lascia così, e va più che bene, vai Tom. Sì, Gian Maria, ogni tanto bisogna controllare, ogni tanto, forse da noi non ce ne accorgiamo quasi nulla, perché arrivi quasi allo stesso segnale, ma ha aumentato di una tacchetta da me. Questo apparato deve darsi un po' garido, come ti dirigi, il trinto. Questo, sai, quattro tacchette, quattro quadrettini sta dentro e basta, non di più e né di meno, va a secca tutto. Va bene, se vedi, quando ti faccio la stessa, se vedi il fumo vuol dire che è qua. No, non siamo friggendo in onda, bravissimo. Non ti posso avvertire io da qua. Ehi, là, se c'è fumo già si vede, sta in alto il pistetto, là. Ok. Beh, Marco. Purtroppo l'ho scaldata troppo, stava bollendo la zuppa dei fagioli. Fare pasta e fagioli. Claudio, per il 48 volt, me. Pomponio fa le le omologazioni su misura, vai da lui, ti fa la targhetta. E la fa lui. Il capo ce la deve fare la targhetta, già la gente ce la chiarisce. Vai da cinesi, prendi la cosa e te la attacchi. Ma pronti, vi l'attacco io. Aveva detto anche che Grassi, tempo fa, Grassi, no, il venditore, non so, faceva le targhette per gli omologati, le faceva lui. Stavo scherzando. Ma io, per favore, ma non diciamo queste cose che sono brutte da dire, che siamo dei professionisti, dai, non si dicono queste cose. Magari domani uno deve andare a farsi fare la targhetta, ma no, lasciamo perdere. È un allarme di quelli così passeggeri, niente di che, no? Però è meglio sempre averli con queste nuove normative. Io fortunatamente tutti gli HF amatoriali ce l'ho a norma di legge perché sono nuovi, quindi sono a norma europea. Qualche radio amatoriale lo stesso è vintage, però mi sono informato che noi radioamatori non ci sono queste regole, quindi non mi interessa. Va bene così, va a fare due giacciari, a voglia. Vai Tor, riprendi, mi assento 10 minuti che devo sistemarmi il cane, poi ci sentiamo, riprendi Tor. Ogni abulotto che c'è a casa tua, Claudio, mamma mia, si sentono più gli altri che te. La televisione a casa mia soffre tutti d'ottite, capito? O è la televisione, non lo so cosa è, ma c'è un abulotto. Picchia il cane con la pompa, mi raccomando. E si fa di notizie, a certe volte glielo dico, io sono già lo sera dove trasmetto. C'è il salone, il corridoio e la sala radio. C'ho le porte aperte, ogni volta mi costringono a chiudere le porte perché c'hanno l'ottite. Mamma e figliola, non venuta da qua. Riprendi tu Gianmarì, ci sentiamo fra un attimino. Anche se quegli altri di prima sono apparecchi nuovi, stesso, quello abbiamo preso ultimamente con un Graziano. Anche quelli hanno le targhette omologate, però quelli mi sembra che superano i 4 watt, se non sbaglio. Sono 40 canali, però superano i 4 watt quelli lì. Ma io ti dico una cosa, Gio Marie, che era meglio una volta. Era meglio una volta, ci scrivevano omologato al punto 8 di CSR bla bla bla del giorno tale età, cioè ti scrivevano proprio l'omologazione, la data di omologazione e non ci sbagliava. Adesso non si sa mai cosa comprare. Vabbè, comunque quelli in Italia, importati in Italia sono già omologati, dai, ci mancherebbe. Mi importa la Marcucci, la Intec, la Midland, la Proxel porta il marchio CDT in Italia, capito? Quindi tutta roba omologata, capito? Sì, ma stanno uscendo tutti, c'è la roba nuova che sta uscendo, e tutti sono tutti omologati per l'Italia, cioè con la CE, capito? Per cui la nuova norma, poi a quanto dicono in Italia sono 4 watt e basta. Né più canali né meno, 40 canali di avere, quindi è. Ho 40 o 34 canali, però quelli 34 canali mi pare devi usare i primi 23 o 22, perché i canali sotto erano per altri scopi, non per uso così, erano per usi lavorativi, tipo sicurezza in mare, sicurezza dei trasporti, non so, vigilanza, sai, vigilanza su varie cose, dai, ti ricordi com'era? Solo il punto 8 era quello che interessava a noi, cioè comunicazione a breve distanza di tipo amatoriale, nel senso non radioamatoriale, amatoriale come facciamo noi, no? Ehi, ehi, ehi, infatti. Boh, non se ne capisce più, no, ma adesso queste leggi nuove che hanno messo, boh. Ma comunque bisogna essersi informati per essere tranquilli, ma... secondo me bisogna essere tranquilli su questo, perché sul modo quando vengono ecco qua, sei tranquillo, capito? Ma sì quello sì. Beh, io già da tempo ho bugato tutto, venduto tutto, non mi tengo solo l'omologato, perché tanto, cioè, in città per parlare basta un canale, 223, basterebbe avere un canale quarciato, 4 watt e moduliamo tutti. Prima c'era il 10, poi il 10 si è svuotato, vabbè. Va bene, sono le mode che vanno e vengono. Infatti sì, potremmo avere un canale solo, capito? O due al massimo. E moduleremo tutti tranquilli. In AM, nemmeno SSB, nemmeno FM, capito? Peccato, perché prima almeno ce ne erano omologati che avevano i 40 canali e avevano le bande, e uno poteva anche andare in banda e per cui andava bene, mentre che adesso in banda con le nuove leggi mi sembra che non ce ne siano, hanno 40 canali che stanno le bande, i nuovi tipi di apparecchi. Sì che ci sono, questo ce le ha le bande AM, FM, SSB, e così il Jobix Ithaca, AM, FM, SSB, oppure se vuoi c'è l'Albrecht 5000, no aspetta, Albrecht 5890, AM, FM, SSB, oppure Midland, Midland, come si chiama? 7000, non mi ricordo come si chiama, no, Midland 7001, 9000, una cosa del genere. AM, FM, SSB, già ci sono, ho voglia, anzi prima erano 4 watt in SSB, adesso 12, tanto la potenza, sai, non è costante, è un picco che fa, ho voglia, certo non sono tantissime prima, però già ne trovi con le bande laterali, ho voglia. Poi stavo guardando un po', ma non ne ho trovato nessuno. Anche Midland e l'Alan, tutti AM, FM, 40 canali, basta. Quello che abbia la banda non ne ho trovato nulla, manco, forse non ho guardato bene. Perché magari potrebbe anche interessare avere le bande laterali, ma... Sì, è interessante. Claudio, ci sei? Ah, l'8001 mi pare sia, Midland 8001 XT. XT, cioè la X e la T, no, X e Tango, però molti l'hanno parlato male, molto male, però c'è della Midland, omologato, espandibile, però una volta espanso perdi l'omologazione ovviamente, però non lo so, quello proprio non lo prenderei, perché ne hanno detto peste e corna, ne hanno detto. Sì, allora, proveranno a giocare, a perderlo, infatti, non prenderlo. Vai a Cibassa, vai a Cibassa, tanto abbastanza ce l'abbiamo usati e bande, per cui adesso ci usiamo la MFM, boh, 40 canali siamo a posto, boh, tanto pensiamo due capre, ragazzi, e parliamo solo qua in Sassari, per cui a Cibassa non ci bisogna delle bande. Ascoltare, e abbiamo ascoltato troppo, ma adesso basta, così che io io pure non c'ho più niente, mi è rimasto uno, ma quello mi sembra che uno deve prendere a portarselo via, così che sono tranquillo adesso, boh, c'ho questo omologato, anzi due ne ho preso omologato, 40 canali AM, FM, e sono a posto, boh. Eia, sono finiti gli anni... Negli anni 80, ti dico, le lineari, 1000 watt, 500 watt, 700 watt, c'era la corsa agli armamenti, si facevano la guerra a chi arrivava più forte e più lontano. Adesso non c'è il tanto. Bene, Squalo, riprendi. Squalo è andato a cosa? Nel Mediterraneo è uscito. Sì. Allora, qua mi sta dando, mi guarda, preciso, 4 watt. Watt e 4, giusti. Quale, il tuo? Sì, il mio mi sta dando 4 watt, giusti. Precisete, proprio sulla lancetta del 4. No, è distaccato il rosso. L'ho distaccato. Dopo provo a attaccarlo a vedere un po'. Ma non penso sia di più, 4 watt dovrebbe essere. Sì, 4 watt precisi proprio. Proprio giusti, né più e né manco. Aspetta che lo attacco, vediamo un po'. Dovrebbe misurarmelo bene questo della ZG. Adesso provo un attimino. Rimango un ascolto, vado a mangiare, dai. Sì, buon appetito. Grazie, avete parlato in due, vai Squalo. Chi è l'altro? No, Gio Maria mi ha detto appetito. In realtà si dice di Dravessu. Andavi, dai. Ehi, tra amici quello, no? Tra amici. Dice, stavamo a mangiare di Dravessu oppure di Necciali Dolci. Va bene, dai, adesso mi piglio sta zuppa di ceci, poi stanotte tuoni e fulmini, li faccio io i tuoni. Puglia, andate allora. Vai Gianmarie. Aspetta. Quanti sono otto? 4 vatti spaccando, 4 vatti spaccando. Se ho detto sono 4 vatti giusti. Me la sembra a me così. Mi sta dando così, mi sta dando il fatto. Sì. E infatti sono 4 vatti e non vale più. Sono fatti che per 4 vatti, 4 vatti sono, dai. Vado bene, dai. E a voi a 4 vatti. Infatti, 4 vatti giù e 4 vatti scia. C'è quell'altro ente che c'avevo 34 canali, usciva 5 watt, usciva precisi. Quell'altro sì, quel 497, e questo c'ha, dunque, c'ha 4 e 2, 4 e 3, non di più, non va di più, anche quello è 4 e 2, 4 e 2 e mezzo, una cosa del genere. Quei picchi sono 4 e 2, dai. Non di più ne manco, il vecchio omologato. No, questo qua invece è 4 impaccato. Proprio impaccato, Mi ascolti sempre bene, sì? Sì, a voglia, certo. Tu lo sei, sì, va bene, siamo vicini. Va bene, va benissimo. Marco sta pranzando, mi raccomando, piano, ogni tanto un goccettino, Marco. Eia, vi volevo dire una cosa, no? Va bene, in passato erano 5 watt, no? Tipo fine anni 80 e inizio 90 erano 5 watt, adesso ci hanno fregato un watt. Ma ve ne dico una, lo sapete i giapponesi in che condizioni lavorano in 27? Allora, hanno degli apparecchi che devono avere l'antenna fissa e non estraibile, hanno un'antenna fissa, sembrano degli apparecchi quasi veicolari o da tavolo, no? Antenna fissa e hanno solo 8 canali 500 milliwatt, cioè hanno 8 canali e mezzo watt i giapponesi, lo sai? E gli apparecchi erano marcati Panasonic, Sony, poi sono strani come sono fatti, se avessimo WhatsApp Gio Maria te l'avrei fatti vedere. E loro, pur con questo mezzo watt, vanno a fare di X, lo sai, per vedere chi arriva più lontano anche con mezzo watt. Sì, infatti, si arriva, sì, a voglia. E quelli hanno l'antenna così fissa, per cui non... Però so che è così, si vecchia parecchio, ma tuttora penso che abbiano aumentato anche loro, no? Mi sa di no. Cadino, io ho trovato questo documento, banda CB, banda cittadina Giappone, e ho visto questi apparati. Ah, e devono avere di solito questi apparati in punta un colore arancione per far riconoscere che sono apparecchi CB. Guarda le leggi strane che hanno loro. E i canali sono tutti sfasati, non sono come i nostri. Sono tutti sfasati, con l'uno finale, col due finale. Sono tutti canali proprio che hanno solo in Giappone. Poi ci sarà certamente qualche pirata che ha baracchini normali, eh. Come tutte le nazioni, no? Si sa. Quelli ci saranno sempre. C'erano e ci saranno sempre, dappertutto. È così, eh. Avanti, to. Io penso che anche loro già ne mettono nulli, non credo che andranno a mettere precisione, no? Ah boh, certo che sono severi in Giappone. Il Giappone è un paese strano, per esempio i cittadini normali non possono possedere armi, almeno così dovrebbe essere la regola, poi la malavita alle armi se le procura. E questo ha a che fare dopo la seconda guerra mondiale, non so, non possono avere un vero e proprio esercito, hanno un piccolo esercito per cose interne, no? Però gli Stati Uniti fanno quasi da esercito per il Giappone, una cosa del genere. Ci sono proprio delle basi statunitensi in Giappone, perché dopo la seconda guerra mondiale hanno firmato un patto per decidere che il Giappone doveva avere un esercito minimo solo per cose tipo per proteggere i confini, dai, quelle cose lì. No, aspetta un attimino, Gian Maria, dentro subito. Sì, Ah, non lo sapevo quello lì, Non lo sapevo, Marco, che era così. Perché ha perso la guerra, come tutte le altre nazioni che hanno perso. L'America era quella che ha salvato mezze nazioni, ha salvato. Poi hanno cominciato a fare delle leggi speciali per ogni nazione, per cui si è arrivato a questo punto. Se no l'America era padrone di tutto, era, perché aveva vinto la guerra mondiale, aveva vinto loro l'America. Infatti ci hanno salvato loro. Ci hanno salvati loro, perché se l'America non fosse intervenuta saremmo sotto in mano della Germania. Avrebbe vinto Hitler. Poi non si sa, magari sarebbe stato meglio anche l'Italia, che ne so. Adesso mi viene da pensare anche quello. Sarebbe stato tutto bello, ordinato, pulito, chi lo sa. Però poi non c'era diritto, capito, non c'era libertà di parola, di stampa, di pensiero, capito? Sì, perché c'era leggi troppo severe prima, come quando si trovava la buon'anima, che per rubarla ti tagliava il dito o la mano, ti ammazzava e ammazzava la loro. Certo, io infatti, i lacchini, che l'ho ammazzato un poco di essi. Certo. Gli avrò fatto cose brutte quello lì, ma ha fatto tante di quelle cose buone che se ne sono dimenticate quello che ha fatto la buon'anima. Lo so, hanno bonificato la Sardegna, tante altre zone, hanno costruito scuole, hanno fatto, queste parole di nonna quando era giovane, dice che gli arrivavano alle famiglie del sud, no? Che erano un po' numerose, gli arrivavano gli assegni familiari, andavano a scuola tutti vestiti bene, col grembo, tutti belli e perfetti, puliti, e stavano bene, ha detto, in quel periodo. Però il rovescio della medaglia è che non c'è libertà di pensiero, capito? Se eri contro di lui ti facevano sparire, ti ammazzavano, capito? E infatti, sai, così è fatto. E adesso già sono cambiati in bene, però ci sono tante cose che vanno male, però come in tutti i posti, non solo in Italia, ma no. Le leggi bisogna anche saperle fare, mantenere le leggi, eccetera, però mi sembra che le leggi a mantenerle e a e a rispettarli solo in poco, e non solo in Italia, ma dappertutto. I mascalzoni ci saranno sempre come c'erano e ci saranno. Adesso peggio di prima, perché tanto li presero, dopo poi li buttano fuori e fanno lo stesso lavoro. Sì. Hai visto che a seconda di come va dovremo votare a giugno. Non hanno fatto il governo, magari votiamo di nuovo, non fanno il governo, e beh, come va a finire poi? Ora siamo a votare ogni due mesi, per carità, guarda. E per quello stiamo pagando noi, perché cose, non so quanti miliardi abbiamo già perso, e per cui se non riusciamo a farlo, se continua anche a perdere, le banche è un macello, capito? E ancora saremmo peggio. Allora Mattarella doveva aspettare ancora un'altra settimana, doveva aspettare per mettere questo a questo qua, solo che Guidi il coso era proprio di assi, boh, il coso troppo a lungo stavano facendo, e allora Mattarella ha troncato i piedi, via, te te lo do io adesso il governo. E ma tanto c'è questo provvisoriamente, però sai com'è, non c'ha sostegno, e gira lo butta subito fuori. Comunque Mattarella secondo me ha messo troppa fretta, poteva aspettare, invece lui no, dice entro tale giorno voglio il candidato, vabbè. Perché Marco ci voglio soldi, sembra così, ma sono soldi che vanno fuori dall'Italia e... Se i soldi non abbiamo, noi, sicché siamo di sotto, molto di sotto da quando non hanno fatto il governo, capito? E poi mi pare che, sapete che l'euro, guardato le quotazioni in borsa, l'euro ha raggiunto tipo un minimo storico, no? Rispetto al dollaro, è calato molto. Secondo me c'entra anche questa storia che il governo non si è fatto, tutto influisce sulla borsa, lo sai, sulle valutazioni dell'euro rispetto alle altre monete. E beh, ya rispettiamo anche le banche, gatto, e gli affari come stanno andando tutti male, capito? Per cui sono soldi che vanno via, capito? E se non riescono a farlo, ohia, per carità, più si ritarda più soldi perdiamo noi. E poi, se si fanno le votazioni di nuovo, potremmo spendere un altro miliardo di euro per te, per fare tutta l'organizzazione delle votazioni, e sono soldi pubblici. Quattro mesi e non di più, tanto per stare libero bene l'Italia, e boh. Siete sopraffollati in due. Ho detto che fare le elezioni costa, non so se quanti milioni di euro spendono per rifare le elezioni, e sono soldi non pubblici. E poi immaginare sulle votazioni e sul governo appeggia ancora, Marco. E poi quello, non so se ci stai seguendo il telegiornale, già lo stanno dicendo. Via, e l'Italia, messa male. Caspita, la Germania ha perso due guerre mondiali, eppure funziona meglio apparentemente, molto meglio dell'Italia, perché le schifezze che si vedono in Italia e in Germania si vedono molto, molto meno. Questi politici corrotti, zozzerie, poi mai visto che avevano portato una volta Cicciolina in Parlamento, vai, una cosa ridicola, cani e porci hanno portato, sciampiste hanno messo, amiche di Berlusconi, le amichette intime, no, tutte al governo, boh. Ma la Germania hanno attaccato le leggi giuste, il personaggio giusto al governo, capito? Non è come qua, perché tu sto dicendo qua il primo che se ne alza fa un'altra legge, capito? Qua è solo per mangiare e basta, tutti i soldi se li mangiano loro, mentre in Germania è diversa la questione, più di qua tanto non ti prendi e basta, mentre qua invece non bastano ancora, ne vogliono. Ecco com'è la faccenda, sono delle leggi sbagliate, che le leggi hanno fatto per loro, capito? Non per il popolo italiano. ce l'hanno fatti loro, ce l'hanno fatto le lise, capito? Perché voglio mangiare a quattro galassie e l'italiano sta morendo di fame. Eia. E poi basta vedere chi c'ha al governo, tutte donnicciole, amiche di Berlusconi, finocchi, travestiti, Vladimir Luxuria. E quindi, mamma mia, vabbè, poveraccio, quello non è colpa, ma insomma, boh, in Germania mi pare non ne vedi queste cose. E ci sono, magari se le fanno vedere. Davvero, ma ci sono, dappertutto ci sono, ma dappertutto, non c'è nazione che non ci sono quelle persone, capito? Sì, non solo in Italia, stanno facendo leggi, dicono che sono leggi buone, ma mi sembra che siano leggi peggiori. Certo, per carità. Se non danno lavoro e stiamo andando e peggiorando, se non c'è lavoro moriamo più di fame, siccome siamo già morti di fame, capito? Ah, ci saranno anche se le altre nazioni, però non come l'Italia, è pieno l'Italia, pieno di morti di fame, capito? Non credo che in Germania queste persone del genere ci siano, assolutamente. Sì, forse a livello minore. Livello minore, certo che l'Italia, boh, cosa ci fa in Europa? Un paese come l'Italia che, insomma, boh, assieme alla Grecia, poi un altro paese di morti di fame, e la Spagna pure, boh. Sì, la Grecia era veramente sottoterra, era sottoterra. Io ho avuto anche i greci lavorando insieme a me in Germania, Marco, e li ho avuto. Tutte donne però erano, anche uomini, cioè, però la maggior parte donne. E i poverini, nudi e crudi, arrivavano, nudi e crudi, proprio affamati, ci volevano affamati. E l'Italia però non era a quel punto, la Grecia era veramente a terra, l'Italia ancora mangiava bene, dai. Sei predetto. L'Italia da quando è entrato l'euro... c'è il fasciato tutto, c'è il fasciato, questo è cosa è. La pensione prima era un milione fa da 500 euro, farà da giù. È una cosa che non attaccava per niente queste cose qua, dovevano solo guardare direttamente, dice, ma se la pensione si abbassa qua, si ti morire dei fammi, ma non hanno pensato a quello. Prodi ha pensato giù, sta direttamente con l'euro e buh. Otto. E l'Europa come, non è la stessa cosa, perché bisogna saperli gestire i soldi, capito? Se tu non li sai gestire bene, come fa la Germania, come fa anche la Francia e altre nazioni, stiamo andando e peggiorando, capito? Siccome i soldi non li stanno, ma chi ruba una parte, chi ruba l'altra, chi si riporta via, come si fa? Solo sentiamo solo in Italia che fanno tutte queste cose, sulle altre nazioni raramente sentiamo queste cose. Perché l'Italia abbiamo dei politici che pensano a loro solo, tipo il signor Berlusconi, a che cosa vuole fare, ma ci ha guardato, no, ci ha mai dato nulla, non era futtia nulla di che era bovaro, che pensava a incasciare il buco. Ci vediamo soltanto. E allora vuoi stare un botte torra, ma che vada a fanculo vada. Ma non è che lui possa fare tutto quello che vuole lui, no? Otto, non è così, to. Non è che lui possa fare tutto quello che vuole assolutamente, perché anche lui ci sono le persone che lo controllano e quindi quello lì lo può fare, capito? Certo, vadano perché magari si ricavano gli occhi uno con l'altro, capito? Però non è quello il fatto, no? Basta perdere che Berlusconi sta dando anche al lavoro a molte persone, mi sembra che non so quante persone c'ha a lavorando, capisci? È così purtroppo, è così. E lui cerca di avere più di quello che c'ha. E perché cosa? Perché non gli basta che c'ha tanti di quei pensieri che lui non abbia, ma che pensieri ci arriviamo, capito? Lascia perdere che Berlusconi ti sta dicendo che sa, ha fatto molte cose, purtroppo non tutti lo possono vedere perché è in mano agli occhi di tutti, però non è così cattivo, dai. Certo, gli altri hanno fatto peggio, capito? Peggio hanno fatto gli altri. Sì, ma sai cosa è? Che bisogna far entrare i giovani che sappiano andare avanti e tutto quanto. E questa gente vecchia noi non ce ne facciamo più nulla. Loro pensano solo al potere e basta. L'unica cosa che devono fare è essere onesti, ecco cosa è. Questa cicciolina gatta ha fatto, mi sembra, 5-6 anni di camera là, cazzo e figlia, mi sembra 3.000-4.000 euro di pensione. Ma come si fa, ragazzi? E noi lavorando, gatto, una vita, 40 anni ci danno due citti, gatto. Ma come si fa? Ecco perché le leggi sono tutte sbagliate, perché solo per loro pensano, non pensano al popolo italiano che sta lavorando e sudando veramente. E loro invece hanno spesato quasi di tutto e non basta quei soldi che prendono, gatto, milioni e milioni. Se passa la legge che hanno fatto Di Maio e Coso, o è quello della Lega, se passa quella legge lì, loro non vedono più nulla di quei soldi lì. Io dico solo che c'era avuto almeno 5-6 anni una vita della buon'anima. Quello lì, sai, tranquillo che non penso che quei soldi te l'avessi portati fuori, davvero. Te l'avrebbero preso e l'avrebbe fatto fare i lavori come dovrebbero fare, invece non penso a incazzare e se ne fregano degli altri, capito? Se ne fregano, ecco. Mentre quell'altro invece, la buon'anima, quello tu aveva tanto, te lo prendeva e lo dava a chi non ne aveva. Infatti, ma purtroppo so di che buoni magna che cosa. Se aveva continuato Salvini e Di Maio a esserci loro, vedrà che con quello che volevano mettere loro sono riusciti a farli passare tutta questa cosa del coso di prendersi 4.000 o 9.000 o 10.000 euro di pensione. Ah no, è stato tutto dimezzato. Poi mi aspetto 5 minuti, 5-6 minuti, dai. Già sono qua, Giomari. Poi ci voleva, quando è passato l'euro, un'autorità che bloccasse i prezzi, che congelasse i prezzi. Perché ho visto passare, per esempio, già andando in Piazza Tola, tre magliette da mettere sotto la camicia, le magliette di cotone, tre magliette, 10.000 lire. Come è passato l'euro, tre magliette, 10 euro, che sono quasi 20.000 lire, capito? Però qualcuno che facesse controllare, verificare i prezzi, non lo so. Per esempio anche da Auchan, tre videocassette, no, per il videoregistratore, tre videocassette, 8.900 lire. Come ti passa l'euro, tre cassette, 8,90 euro, che sono quasi 17.000 lire. Capito il giochetto? Hanno raddoppiato tutto. Come dire, che ne so, adesso non si so fare un paragone. Capito, hanno messo anziché euro, 10 euro, 10.000, 10 euro, però è doppio, sono 20.000 lire. Così ci hanno fregato, con i numeri piccoli. E vabbè, purtroppo, qua non è tutto uno schifo, non c'è stata l'autorità che ha congelato i prezzi, capito? Per evitare che succedessero queste cose, i raddoppi del prezzo delle cose. Tu prova a guardare i francobolli, che prima erano 500 lire, da 500 lire sono passati a 5 euro. Tutto ai nostri danni, l'euro c'è, che Gio Maria non c'è, ti dico, l'euro ci ha trombato di brutto, ci ha trombato da dietro, capito? Vabbè, e cosa vuoi ti dica? Qua non sanno amministrare, boh, lasciamo perdere, dai. se no mi tocca inveire contro i politici. C'è un'altra cosa, c'era, se quando loro hanno fatto entrare l'euro, hanno fatto entrare senza baida nulla, non gliene fregava nulla, che ci perdeva anche non ci perdeva. Quello che prendeva di pensione, un milione di pensione, c'è stato abbassato da 500 euro. Beh, 500 euro è un milione, però cioè, è rimasto quasi tale, no? Però la roba è raddoppiata quasi, in molti casi è raddoppiata. Capito? Prima 1 milione, poi 500 euro che sarebbe circa 1 milione, però la vita è rincarata. Capito il giochetto sporco che hanno fatto loro? Da quando Prodi ci ha portato in E, ci ha portato nell'Europa, boh. Vabbè, poi non è detto che duri questa Europa, non lo so. Già l'Inghilterra, no, il Regno Unito se n'è uscita. Non se n'è uscita del tutto, diciamo, perché ancora la dogana non c'è con l'Inghilterra, se compri roba. Però già l'Inghilterra è stata molto favoreggiata, molto favorita, cioè gli hanno permesso di tenersi la sua moneta, capito? L'Inghilterra era nell'euro ma si teneva la sterlina, perché valeva un bel, gli hanno concesso questo, nonostante ciò è uscita, poi fra qualche anno uscirà del tutto. Ho stranutito. E poi ci sarà di nuovo la dogana, non ci sarà la libera circolazione delle merci e delle persone, capito? Così non vogliono nemmeno neri, ce li dobbiamo carrare noi in Italia, perché all'est non li vogliono, in Francia non li vogliono, in Inghilterra già non ne vogliono adesso, e ce li dobbiamo beccare noi perché siamo nel Mediterraneo, capito? E ce li punimmo. Oh, anche adesso forse se non è entrati Salvini e Di Maio, così di extracomunitari dovevano sparire da qua, no, non siamo, noi non dobbiamo prendere sempre la mondetta noi, tutto, non ci dobbiamo fare carico di tutto, questo cos'è, l'Italia sta andando a rovina, per quello sta andando a rovina. Comunque vabbè, per questi neri, diciamo, Salvini non è che sia proprio cacciare fuori via tutti, non fare entrare nessuno, però dice, giustamente dice, l'immigrazione va regolamentata, cioè non è che arrivano con le navi, con i canotti, 300, 1000, 1500 alla volta, devono essere ordinati, devono avere i documenti, capito? Devono sapere dove abitano, insomma, devono essere regolari, come noi quando andiamo, che ne so, in America, quando andiamo capito? Come noi, che ci controllano tutti i documenti, se hanno dubbi non ti fanno entrare, capito? Se sei delinquente non ti fanno entrare, quello devono controllare anche. Marco, io ti devo lasciare, devo andare a prendere la signora, ci sentiamo dopo, come rientro. Ehi, ciao Tore, dai, a dopo, ma spero di esserci dopo, dai. Ciao, buona uscita. Gian Maria, sei rientrato? Sono qua. Fai pure il ho capito il discorso, Gian Maria. E molte cose hanno raddoppiato il prezzo. Cioè, al posto delle lire, tre magliette, 10.000 lire, hanno messo tre magliette di 10 euro. È il doppio quasi. Ma quando mai? Ma è così, Ma non è solo qua, è dappertutto. In Europa siamo tutti così. C'è quella nazione magari che ne aveva di più, magari sono più leggeri, mentre noi già che era poco quella che avevamo e adesso ne abbiamo anche di meno, per cui noi la paghiamo molto la cosa, capito? Sì, perché siamo nei, ma tanto se dobbiamo essere in cose con la lira e gli altri forse erano sempre andati come stanno andando, forse eravamo stati più male che bene, capito? O tutto o nessuno con l'euro, capito? Sì, a me l'unica cosa che mi fa comodo è che da quando c'è l'euro, no? E tutti i paesi europei non hanno più la dogana, posso fare acquisti senza pagare dazi enormi, capito? Le tasse doganali, infatti ho comprato da Germania, Austria, Francia, Spagna, Regno Unito, dalla Lituania anche, che mi pare fa parte dell'Europa. E ho comprato un sacco di roba, capito? Radio e non solo, anche radio, anche altre cose di uso comune, capito? E se noi fossimo di nuovo con la lira, pagheremo la dogana per qualsiasi cosa. E poi conta una cosa, mentre l'Inghilterra se lo può anche permettere di uscire dall'euro perché ha la moneta forte, l'Italia c'ha una moneta, la lira non varrebbe niente rispetto all'euro, e saremo messi male, saremo come il Nord Africa rispetto all'Europa. Ma infatti, a chi era che vuole far ritornare a Cosio, alla lira? Mi sembra che era Cosio, come si chiamava quello? Quello di quel fazzoletto verde, come si chiamava? I leghisti? No, Di Maio, no, l'altro, come si chiama, ragazza, a Napoli? Questi due che ci sono lasciando in 5 Stelle, chi è l'altro che la fa? Sì, non mi viene il nome, dai. Sì, molti vorrebbero uscire dall'euro, però poi cosa fai? Vabbè, compri solo in Italia, non so come sono i rapporti con l'Europa poi. Non ci sarebbe più la circolazione libera delle persone, cioè bisogna tornare come prima, che bisogna avere il passaporto per andare in Francia, Germania, Inghilterra, capito? La dogana, vabbè, io parlo per conto mio, a me piace acquistare da fuori, però quella è una cosa minore, bisogna vedere cosa succede uscendo dall'euro, come andiamo a finire, in poche parole. Guai, eravamo stati peggio, già siamo male adesso, allora stavamo troppo peggio con la lira, non è possibile, è assolutamente impossibile tornare alla lira. Se no saremo veramente sottoterra, capito? Per cui meglio che stiamo lì e va bene così. Piano piano, l'importante è che riescono a dare lavoro, perché se uno dà lavoro stanno bene tutti, ma se non c'è lavoro come si fa? Non è possibile. Solo che l'italiano pensa solo a mangiare lui e basta, quelli che sono su, capito? Non pensano al popolo italiano che si sta morendo di fame, no? Se ne fregano, capito? L'importante è che si abbiano le tasche sempre piene e acquistare quelle che non devono acquistare, capito? Guai se si torna alla lira, ragazzi. Siamo peggio dopo, perché tante cose cambieranno, per cui ci mando la terra completamente. Allora, anche per piccole cose, no? Io posso comprare roba in dollari, con l'euro i prezzi sono buoni. Se dovessi comprare una cosa in dollari, che ne so, dall'America, in lire, la lire rispetto al dollaro era poco, valeva poco. E così con l'Inghilterra, capito? Sarebbe un problema. Io sto sempre comprando cosettine, sai, dall'Europa, e non solo dall'Europa. E sarebbe un problema per me. Io parlo da piccolo acquirente di fesserie, così, giabidure, niente di serio. A noi adesso la cosa è prescritta dall'Unione, dall'America, è chiaro che paghiamo molto di più, come il Regno Unito, la stessa cosa, ma dagli altri paesi nell'Europa la paghiamo normalmente, capito? Per cui sono cose magari che sono più care, non so, in Germania, mentre in Italia costano di meno, oppure viceversa le cose, capito? Però con la sterlina vale molto di più dell'euro, capito? Per cui il dollaro oggi è calato molto, è più alta l'euro che il dollaro. Invece prima, quando aveva un dollaro, cazzo, quello lì era un gran signore, capito? E invece la sterlina è un po' più forte dell'euro, mi sembra, capito? Le sterline costa la roba in sterline, però ancora con l'euro. Ma se passi alla lira a comprare un oggettino dall'Inghilterra, mia. Vabbè, pazienza, noi siamo nati qua, ma meglio qua che non da qua. Pensa se nascevamo in Africa, al Corno d'Africa, a morire di fame lì. Quelli proprio sono buttati a terra, e sono come scheletri, l'hai visti, tutto pelle e ossa. Perché non sanno niente, non sanno nemmeno acqua, ma almeno l'acqua ce l'abbiamo, è abbondante pure noi. Ma lì non sanno nemmeno acqua, non sanno soldi a fare pozzi, magari l'acqua si trova, però bisogna cercarla, e a cercarla ci vogliono soldi, capito? Già le stanno facendo piano piano questi pozzi, dai soldi che stiamo mandando noi a altre nazioni, e stanno riuscendo a andare alla bella meglio anche loro, capito? Però loro erano veramente... ma poveri, poveri, e poi li vediamo, ogni tanto li fanno vedere. E noi insomma a quelle persone, cazzo, troppo bene siamo, capito? Ma bisogna, per carità, siamo tutti persone umane, bisogna capirci l'uno con l'altro. Però non so, tutte le nazioni riescono a capire gli altri, capito? Quello che fa male più che altro. Eia. Però mi ricordo già alle elementari, no? Quasi 35, quasi 40 anni fa, e facciamo vedere questi proprio a scheletro, no? Si buttati per terra che non hanno da mangiare, non hanno acqua. Beh, sono passati per quasi 40 anni e la situazione è uguale. Cioè, vivono di aiuti, però non cambia la situazione. E io ti dico che tra 40 anni è uguale come adesso. Non ci saranno pozzi, questi saranno sempre a morire di fame, non lo so, non si risolve, o forse non hanno voglia di risolverlo i paesi occidentali, perché se volessero potrebbero fare qualcosa di un aiuto più, tipo fare i pozzi, cercare l'acqua, non lo so, è un discorso difficile quello. Poi sono dei pozzi che gira, non crescono quasi niente, capisco, pozzi brutti, e non hanno metodi, non hanno mezzi per lavorare, eccetera, eccetera, capisco, e tante cose c'erano e ci saranno ancora, però non come prima, però ci sono nazioni che noi li vediamo ogni tanto che stanno male veramente, non hanno niente, nulla, capito? E anche quelli piano piano, magari lungo andare, può darci pure, riescono a fare qualche cosa, capito? Non hanno mezzi per lavorare, non hanno mezzi, non hanno strumenti, quando non c'è soldi uno non può fare niente, nulla, nemmeno a curarsi, nemmeno a prendersi una bottiglia d'acqua. A lavorare cosa fanno? A fare una piantagione di grano, di che cosa? Tutti hanno i soldi a farlo, e stanno vivendo da queste cose che diamo noi e anche le altre nazioni che le stanno aiutando. È un terreno proprio misero, non cresce niente, anche quello c'è, ma non manco. Sì, è vero, non cresce niente lì. Non lo so, non cambierà mai la situazione lì. Poi il problema è che fanno figli su figli, cioè non hanno da mangiare, non hanno da vestire, però fanno un bel figli. E poi non sanno cosa dargli da mangiare, infatti molti muoiono lì. Non pigliano precauzioni, perché giustamente se non hanno da mangiare, tantomeno hanno i soldi per comprare la pillola, no? I profilattici, figurati. E vabbè, so che ti dica, mamma mia, essere nato lì, te le immagini? Per carità, noi siamo stati anche fortunati a nascere in Italia. È le malattie che ci sono lì, che non riescono a curarle perché non hanno medicinali, capito? E se forse muoiono così questi qua, anche ragazzini piccoli, 5-6 anni, non ce la fanno a vivere di più e muoiono, perché non ci sono i mezzi, i medicinali per poter guarire queste persone, capito? E sono veramente terra, non c'hanno niente, per cui le malattie si sviluppano facilmente in quelle lì, perché non si sorge, non possono fare niente, tutto lì. Ma c'era qualcuno, ha dato qualche battuta, chi è? Ho sentito una risata quando ho mollato. Ma evidentemente ha fatto una risata, boh, c'è stato lì. Se ne ha voglia, siamo qua, la porta è aperta. Così è Marco, noi, guardi, noi la cosa la stiamo buttando, sa quanta roba ci buttiamo noi, eh? Se avrebbero avuto quelle persone lì, quella roba che noi buttiamo, almeno avessero vissuti anche più bene anche. Lo so, purtroppo non c'è modo di fargliela bene, quando arrivare lì è ammuffita e... Figurati. A loro possono dare anche quelle razioni di emergenza, quelle fatte in Germania, mi pare. Sono delle razioni, è una scatola sottovuoto che contiene delle piccole, dei blocchetti, no? E sono altamente energetici, contengono orzo, malto, tutte quelle cose lì, zuccheri. E praticamente con quelle puoi vivere, certo non è come una bella minestra, ma puoi vivere benissimo con quelle là. E durano una roba di 20 anni, 10 anni, 20 anni. Hanno una conservazione lunga, li puoi prendere con o senza acqua. Però se bevi acqua, c'è scritto sulla scatola, è meglio. È proprio salvazione di emergenza, proprio aiuti umanitari. Si chiama, come si chiama? Mannaggia, non mi viene. Non mi ricordo il prodotto, me. Nemmeno io non mi ricordo come si chiama quel prodotto. Taglio a sentire. Ma è così, Gattruia, per carità, per carità. Ce ne sono azioni veramente che manca tutto. E infatti non so come fanno a vivere. Infatti quella arriva a 5-6 anni e muoiono i ragazzi, capito? Non è che lui è morto. E lui, loro stanno scappando da quelle nazioni, stanno scappando perché forse trovano, magari per loro, loro trovano sull'Europa, capito? Però come si fa a tenere tutti? Non è possibile, perché gira, dopo diventiamo schiavi noi e loro padroni, perché stiamo arrivando a quel punto, ancora niente. Tra 20 o 30 anni, se ci troviamo, chi si trova riesce a capire a che cosa succede in Italia e anche sulle altre nazioni. Te le immagini, l'Europa diventerà musulmana? Ma tutte le cose che stanno evadendo, tutta l'Europa sta evadendo. Tutti i giorni stanno arrivando, ma no, come si fa? Siamo male noi dopo, perché sono troppi. Io ho visto così, anche loro hanno visto di mangiare. Però è troppo, deve essere una cosa regolare, ma non che che vengono così a 1000-2000 persone, cazzo. E come si fa? Come si fa? Già stiamo male noi, arrivano e siamo peggio ancora. Ecco il fatto come te. Capito? E poi se tu sei accorto adesso, come se stanno anche scioperando, si può immaginare. Adesso fare anche gli scioperi, perché vogliono questo, vogliono quest'altro. Ma tu te l'immagini. Ma dai, come arrivano a 30 anni, si butta fuori l'italiano e rimangono loro. Verrai. Può essere pure me. Lo so, certe volte fanno questi scioperi, queste cose qua, cioè scioperi, fanno, manifestano, vogliono il cibo più buono, vogliono i documenti italiani, capito? Vogliono proprio dei documenti come fossero italiani, vogliono troppe cose, vogliono, e l'erba voglio non esiste nemmeno nel giardino del re, capito? Vabbè, per loro, sicuramente da certi posti dove sono loro, in Italia è un paradiso, per loro, piuttosto che vivere nella povertà, proprio nella miseria, almeno qui mangiano, hanno un letto, poi hanno tutto il cellulare, non tanto. Infatti, E i cellulari buoni stanno, allora. Cali quello. E quelli mangiano e bevono, se ne fregano. Hanno trovato l'America, hanno trovato. Loro dalla notte, adesso qua non ho conosciuto il giorno e per cui qua mangiano e bevono e se ne fregano, capito? Però insomma anche ce ne sono tutti, ce ne sono tutti veramente, mangiano anche sulle strade, buttano la roba per terra, ma almeno vedi che ci sono i contenitori, le cose, mettile a ritirare, buttare nei contenitori, invece no, oh, già ci sono anche italiani, molti pure. Però loro fanno, non dico un'altra parola, va. Sì, è vero, ci sono anche gli italiani, vanno in pinetta, fanno uno schifo, lasciano bottiglie di birra, piatti di plastica, no, non si fa. Io quando sono per strada, che mi piglio una caramella, la buccia della caramella me la metto in tasca, non la butto per terra, assolutamente. Non butto niente per terra. Anche a me mi piace una strada pulita, che non sia tutto un mottinaggio. E molti se ne fregano, buttano i pacchetti di sigarette, buttano di tutto a terra. I cani che fanno la cacca, capito? Vabbè, quella sta alla persona, l'educazione della persona è quella. E infatti l'educazione della persona, perché quella non ha avuto mai correzione, non l'hanno corretta bene addirittura. Perché se tu porti un animale a passeggio, ormai sanno che tu non lo puoi, cazzo, ma come fai tu? Se hai un animale che fa quello che fa gli animali, raccogliela, no? Ci sono i sacchetti adatti, raccogliela e buttano i contenitori che sono fatti apposta, invece no, se ne fregano. Molti lo fanno però, molti lo fanno, però molti se ne fregano, perché quindi sono animali, non sono persone umane, capito? Perché la pulizia è salute, quando non c'è pulizia vuol dire che uno è mezzo ai malanni. Eia. Certo, fa schifo togliere quella cacca, però va fatto, e c'è certi se ne affuttini. Ma poi se gli dici roba, ti mandano a quel paese lì, ti rispondono anche male. Ti dicono a farti i ca tuoi, capito? E strafottenti ce n'è. Magari loro, casa loro è pulita, magari uno specchio casa loro, però intanto la cacca gliela fanno fare fuori. Beh, dipende. Purtroppo non c'è una cosa, come dire, beh, non trovo la parola. Vabbè. Avere che sentire con particolare. In Germania ero io e un altro amico mio che adesso è morto, non c'è più. Lavoravamo in Germania. E la domenica siamo usciti a passeggio. In giro. E c'è questi giardini belli. Perché lì c'è sempre la pulizia, il borghese, dappertutto. Ha sputato per terra, quella guardia l'ha visto che ha sputato per terra, chiamato, ha pagato due, non mi ricordo come si chiamava, i soldi tedeschi, l'ha messo due euro di multa, l'ha messo, per sputare solo in terra. Forse anche di più, magari era marchi, non so quanto sia. Cioè, cosa volevo dire, bisogna fare un corso di educazione civica alle persone, ai sassaresi, un bel corso di educazione civica. Perché come è strano, a me non piace vedere le città sporche, quindi non le sporco, capito? Accetti di essere lì piaciati a camminare nel pingo. Qua sotto casa ferma l'autobus, se ne ferma 3 o 4. Ci sono le panchine e ci sono i contenitori da una parte e dall'altra. Molte ragazze, anche persone adulte, stanno mangiando un caramello, oppure hanno una bottiglia d'acqua e la buttano per terra, mentre che c'è a un palmo c'è il contenitore ha buttato e se la buttano in terra, che fa schifo tutte le volte che passa quello là a pulire. Adesso dimmi tu, fanno una, ma ce ne sono, le ragazzine non ne parliamo, le ragazzine di oggi non ne parliamo, quindi sono peggio degli animali sono, pulizie, ma non ne hanno educazione, quelli non ne hanno ricevuto, anzi forse se gli erano, ma non hanno accettato, capito? E più stiamo andando e peggio stiamo diventando, vai a dire le cose e ti rispondono male pure, capito? Così che cosa devi fare? Ma lo so, guarda, anche qua c'è una pizzeria, no? Certe volte dei ragazzini, no, si mangiavano la pizza seduti sui gradini, no? Si mangiavano la pizza al volo, così, no, in strada. E poi lasciavano tutti i cartoni delle pizze buttati lì sui gradini per terra. E i cassonetti erano a 10 metri, bastava fare 10 metri e c'era il cassonetto. E certi non ce l'hanno proprio là, non hanno educazione. Invece ho visto certi ragazzi, magari bevendo birra, però poi pigliavano le bottiglie e le buttavano nel vetro addirittura, nel vetro, facendo la differenziata. Capito? E c'è persona e persona. E ce ne sono che lo fanno e dovere giusto, capito? Ma la maggior parte oggi, la gioventù di oggi, per carità, io non sentite ragazzi, io cazzo, persone grandi, cazzo, due passi, capita, e non butti la cosa nei contenitori, perché la devi buttare per terra? O si mettono a giocare per terra aspettando il treno, a giocare con le bottiglie vuote, cazzo. Ma tu ti ricordi, la prendono dal contenitore, la buttano per terra e si mettono a giocare. Ma guarda, io me lo guardo perché è proprio sotto casa mia che si fa il maestra. Io li vedo, qualche volta ho dato uno sguardo e qualche parola, l'ho detto, ma hanno parlato anche male, capito? Che si può immaginare che persone esistono. Sì, perché se i genitori erano così prima, figurati come nascono i figli. Ma poi i ragazzi, vabbè, i ragazzini già sono così, ma le ragazzine sono peggio dei maschi certe volte, poi le fanno di tutti i colori, bevono birra, fumano spinelli, e tutto di più, tornano a casa alle 7 di mattina, sono tutta la notte fuori, minori, ma anche minori tipo 14 anni, ma a 14 anni io dovevo tornare a casa, sennò sono guai, se no non mi faceva saltare i denti, capito? Sono stata la notte fuori, non sai dove vanno, cosa fanno, e vabbè, purtroppo. Poi le ragazze rischiano di più perché sono donne e non sanno mai cosa gli può capitare, a seconda di cosa combinano. Ah, cosa dici? Noi devo che sì, che abita con un zoppo all'anno e zoppo e mezzo. E allora magari magari la persona che magari ha fatto le cose giuste, come all'anno educato, però si abita con queste persone, così all'anno è peggio di quell'altro, capito? E anche quello è. E sia donna che maschio, capito? Perché la gioventù di oggi ha tutto un modo da fare, di pensare che tutto particolare, capito? È così, sia donne che maschi. Ehi, a me nonno mi ha fatto da padre, no? E se avessi fatto una cosa del genere io, o gli avessi risposto male? Che poi di nonno non ti toccavano, bastava lo sguardo che ti faceva. Quando vedi lo sguardo capivi già che dovevi abbassare la cresta. Capito? Altri tempi erano lì. Vediamo se è rientrato Tore Squalo. Tore? Capito Giovanni? Il nonno bastava che ti guardasse, ti faceva lo sguardo. Oh, bisognava arrendersi. Prima, tutta un'altra cosa. Prima tutta un'altra educazione, era più sentiti, dai, più, cioè, ma adesso non è possibile, no? Cioè, ci stiamo andando e poi ci stiamo diventando. perché non puoi dire niente a queste persone, no? Perché la pensano in quel modo, e se tu vai a fare un'osservazione, guai, se non sei attento ti colpiscono anche, ti buttano a terra, capito? Hai visto la gente come io? Magari tu sei tranquillo passando in una strada, magari c'è una greffa e dico io che mettiamo mano a questa persona, e ti prendono, ti buttano a terra, ti fracassano e ti permettono a ridere e se ne vanno. A che punto siamo arrivati, capito, Marco? Sì, sì, anche con gli anziani lo fanno, anche con gli anziani, no? Non rispettano niente, capito, né dell'autorità, né dei genitori, magari certi genitori hanno anche paura di figli, mi capita così anche. E guai a toccarli, perché se tu gli dai uno schiaffo, capito? Uno schiaffo paterno, per dire, si rinuncia neppure i genitori, perché capito, i ragazzi possono fare tutto ma non li puoi toccare. Possono magari metterti le mani addosso a te, però tu non li puoi toccare. Ma roba da matti. È così, infatti. Magari tu te ne accorgi che il figlio magari ha fatto una cosa che non doveva fare, vai dal genitore a dire guarda tuo figlio, così dici, e se vai lì è magari capace ti mette le mani anche addosso, capito? Certi, non sono tutti, ma certi, molti se ne sono di queste persone, si comportano in questo modo. Basta vedere. Certi genitori andavano a scuola a picchiare l'insegnante, perché magari gli aveva dato una nota, che ne so, gli aveva punito, giustamente, capito? Oppure alunni che hanno aggredito anche l'insegnante, uno che l'aveva, con il coltello gli aveva dato sulla guancia all'insegnante, roba da matti. Poi vabbè, li espellono magari dall'istituto, ma la rete non gliela fotti nulla. Stava pochi giorni fa che l'hanno dato questo pezzo, cazzo, un alunno che ha picchiato il professore, insulti, cazzo, e l'ha picchiato anche. Si può immaginare, non so che come hanno fatto, non so se l'hanno sospeso oppure cosa. Mi sembra che l'abbia picchiato al professore, capito? Si può immaginare che tutti stiamo arrivando, non si può dire niente, non si può dire niente perché si aggrediscono, capito? Boh, non lo so a che punto stiamo arrivando, cazzo. A scuola, cazzo, invece di essere più educati, sarebbero più maleducati che altro. E l'insegnante dovrebbe avere anche paura di queste persone. Certi insegnanti, magari le donne, li temono, perché non hanno freno e poi non gli fanno nulla. Magari è minore e non gli fanno niente, capito? Vabbè, tutto di male in peggio sta andando. Io mi ricordo che la maestra mia, una maestra elementari, quando facevo lo scemo, ci tirava uno scappellotto dietro la testa, certo in faccia non ti colpiva, ma ti dava dietro l'orecchio, dietro un bello scappellotto me, e aveva le mani pesanti la maestra. Adesso basta che li tocchi anche il bavero della camicia, hai visto subito, denuncia, coso, sospeso il professore, denunciato, ma boh, pare strano. Poi certe cose agli alunni non li puoi più dire. Io mi ricordo che c'era un mio profilo di quando ero all'elementare e diceva anche svogliato, indolente, capito? Perché io già per lo studio già lo sai, non ero molto. Se tu adesso gli scrivi su una pagella l'alunno che era svogliato, indolente, c'era un macello, fanno ricorsi. Bisogna essere ipocriti adesso, capito? Non puoi nemmeno dire se l'alunno ha svogliato, se è indolente, capito? È tutto strano, è il mondo. E oggi più che mai. No, la maestra che avevo io, prima e seconda ce l'avevo con la maestra, si metteva a mettere le mani girate a farsi in alto sopra il banco, aveva una verga e mi tirava i colpi alle mani, però schiaffi mai, lì dietro, infatti, mai. Qualche sculaccione, vabbè, ce l'ha dato. Però la maggior parte aveva una verga, una vestigita, e mi ricugliare mani. Adesso invece sono gli alunni che picchiano i maestri e a pugni buru. E poi a proposito delle maestre, noi da bambini abbiamo conosciuto la maestra, era una sola ed era anche di una certa età, no? Aveva 60 anni, aveva esperienza. Adesso ci sono alle elementari queste maestrine, giovani, 20 anni, 25 anni, e poi non ce n'è una, no, ne danno due nella classe, tipo due maestre che l'una non sa cosa fa l'altra, capito? Sono poca esperienza, non lo so. La mia era una maestra, vabbè, un po' classista era magari, però era una buona maestra, ci ha insegnato bene, la verità. Certo, quando facevi lo sciocco ti arrivava dietro la testa ti arrivava lo scappaccione, lei lo chiamava scappaccione perché era come si dice, ma non mi viene, toscana era lì, capito? E così, e mamma già l'ha conosciuta, le bastonate sulle mani, con la verga, mamma mia, poco fatica male. E chi sono io? Sei entrato, certo. Via. Ma oggi non li puoi toccare. Guai, se ne lasci qualche schiaffo dietro la testa, guai, non li puoi toccare, ti denunciano subito. Capito? Non lo so a che punto stiamo arrivando. Ma più siamo andati, peggio siamo diventati. Tutto qua. Avanti tu. E allora tutto un altro gozzo diverso. Adesso i giovani di oggi non hanno educazione, non hanno nulla. E poi vai a dire se la maestra dovesse fare una relazione per i genitori. Sì, guai, già ce ne sono bravi che riescono a capire, ma ce ne sono, ti aggrediscono di più ancora, basta che ti aggredisce il figlio, ti aggredisce anche alla maestra, a ta voce, a bestemmia, eccetera, eccetera. Ma tu, a che punto stiamo arrivando? Vedi, all'asilo no. All'asilo io sono stato al Gesù Bambino in Viale Mameli dalle suore, ma era veramente bello, grande, c'era una stanza per tutto, una stanza per riposare, una stanza per giocare, una stanza per, non lo so, tutto si faceva, c'è anche il teatro per recitare, c'era, guarda, veramente bello, però le suore non ti toccavano, non ti sfioravano, capito? Invece adesso ci sono anche gli eccessi, e cioè queste maestre d'asilo che strattonano il bambino, gli danno colpi, no, così non va bene, quello è vero, non va bene. Io da piccolo, a 20 anni, mi hanno mandato in colonia, e la colonia era alla colonia campestre qua, al bunker, certo. Però le maestre che c'erano, ragazzi, avevo sempre le verghe, la vestigita, sempre la vestigita in mano, va via, sempre alle nate che si curiani, no, né a faccia né a rimani, ragazzi, ma è un'altra cosa, dai, adesso è tutto cambiato, per cui il mondo è tutto corrotto, non se ne capisce più un tubo, vai Tore. Giovane di oggi, la gioventù di oggi è quella, non passerà tanto un osservato, no? Vediamo un po' se è rientrato il signor Bacchisio. Bacchisio, oh, Bacchisio è in Alta Italia ancora. Ma lo sai, Gio Marì? Dimmi tu. Secondo me ci voleva almeno un po' di servizio militare, perché lei se sei, come dire, tira drizza, non mi, se sei prepotente, indisciplinato, lì ti crepani. E se non migliori, ti allungano i giorni della leva, non esci più. Sarebbe stato l'ideale con lì a molte persone, capito? E lì erano molto severi, sicché non è che potevi fare tutto quello che volevi, capito? Però adesso purtroppo non c'è più quel servizio, e per cui fanno quello che vogliono, hai visto? Fanno quello che vogliono, sono, si parlano male, fanno delle cose, tante cose che non devono fare, e non gli puoi dire niente perché si parlano male. E come si fa? Non lo so, secondo me magari i genitori hanno fatto di tutto, però che abita Gruzzoppo all'anno e sopra e mezzo, Marco. Eia, e poi non gli puoi dire niente, perché secondo di come va, sono tutti col coltello, col coltellino. E non hai visto quell'omicidio? Vabbè, quelli erano 23 e 25 anni. A Ottava, per una banale discussione, questo 25enne si leva il coltello e gli dà una coltellata al petto, e quello è morto ammazzato, rimasto. A Ottava, due giorni fa mi pare è successo. Però l'hanno preso e lui ha confessato. Adesso ci fa 30 anni in galera. Non se li fa. Magari glieli danno, ma non se li fa. Primo perché c'è la buona condotta, poi sovraffollamento, poi indulto, premessini, alla fine se ne farà pochi. Però intanto l'ha ammazzato, per dire. Per una discussione stupida. L'ho visto alla TV. L'hanno dato. Purtroppo. Ma quello si chiama dappertutto, e oggi si chiama dappertutto, però stiamo diventando come gli animali, cazzo, ammazzare una persona, ma come si fa? Come quello che ha ammazzato la figlia che l'ha buttata dalla fonte, prima anzi ha buttato la finestra la moglie, dopo ci ha buttato la figlia e inutile si è tolto la vita a lui, non so se l'avete visto, Tore. Ehi, Gio Marino, la sono qua. Ma signor Battisti, oggi mi pare che non entra. Vuol dire che è impegnato, dai. Vuol dire che è impegnato, capito, Marco? Guarda, ma sto notando una cosa. C'è ogni giorno c'è una notizia o del ragazzo che uccide la ragazza, anche oggi ve n'era una, oppure di marito che ammazza moglie e figli, hai notato? Non si ammazzano da soli, vogliono portarsi i figli e la moglie assieme. E ogni giorno viene uno, ogni giorno c'è un omicidio, il solito ragazzo che ammazza, o ex ragazzo che uccide la ragazza, oppure marito che ammazza moglie e figli. Ma la gente è matta, sta impazzendo, e non è solo questione di soldi, di gente che è in crisi di soldi, non è solo quello, la gente sta diventando matta. Poi tutti insospettabili, anche carabinieri, ex carabinieri, da un giorno all'altro normali, e il giorno dopo sparano in testa i figli e la moglie. Non so cosa sta succedendo, l'uomo sta impazzendomi. La donna, ma l'uomo sta impazzendo per una parte e la donna sta impazzendo dall'altra parte. E anche il fatto che oggi sono liberi, se ti piace così, se no cambia, magari quello, magari è geloso o vede una cosa che non deve fare, un colpo di sangue a testa, succede questa parte a track, c'è la parte dell'uomo e c'è la parte della donna, però la maggior parte c'è sempre la donna che perde, la maggior parte, e qualche volta succede anche alle donne cose del genere. Guarda, è raro che una donna ammazzi il marito, però può capitare, ma è sempre l'uomo, la bestia peggiore è l'uomo, contro le donne e contro i figli anche. Ma io chiedo come si fa a ammazzare un proprio figlio, certi li buttano dalla finestra, certi li sparano in testa, come si fa? Proprio devi essere diventato macco. Ma poi anche se uno è povero, se dovesse essere questione di soldi, anche se uno è povero e non c'è un soldo, si va alla carità, se si mangia lì, ma non ammazzare i figli, no. Ci sono tante ragioni, bisogna anche vedere da che cosa succedono queste cose. C'è sempre un motivo per cui si arriva a delle cose che non si dovrebbero fare. Purtroppo è così. Avanti, Tocco. Mi pare che a fare da queste cose mi lo lascia lì a qualcuno che se ne intende. Qualche psichiatra. Infatti, non noi no. noi non ci siamo buoni a fare il psichiatra. Vabbè, va. Va bene, signorio, chi va? Me ne alzo un po'. Ho le chiappe, cazzo, se non ti dico niente. Fanno male anche le chiappe a forza di stare sempre seduto qua. Per cui adesso me ne alzo, spengo tutto, me ne alzo, faccio due passi così, dentro casa, e spengo tutto. Già abbiamo chiacchierato da un po' stasera, per cui grazie la chiacchierata fino a marzo. Grazie anche a Tore, buon proseguimento, ci sentiamo. Chiudo, vai Marco, aspetto per il finale di chiuso, a domani se coincide. Sì, oggi abbiamo parlato abbastanza, dai. Beh, almeno abbiamo trovato qualche argomento di cui parlare, perché sennò se qua non c'è, l'argomento alla fine si sta lì, Va bene, buon proseguimento di serata, buon tutto. Qua ancora per il caffè presto, vuol dire che mi guarderò un telegiornale. Il problema è tutto politica, questo telegiornale, tutto politica, e non ne posso più sentire nemmeno, ne ho le scatole piene della politica. Viene voglia pure di non andare più a votare, lo sai. Però se poi non voti magari vince la parte peggiore. Va bene. Va bene, riprendi Torre Squalo. Sì, ok. Ciao Gianmari, ci sentiamo domani alle prossime, ok. Oh, sta calmo stanotte, non ti agitare troppo, ok? Sono tranquillo io. Proprio stasera sono tranquillo e pacifico. Già mangio di più stanotte. Ok, vai, ciao, buonanotte, chiudo. Ciao Gianmari, ciao. Ciao Tamia, signor Marino. Ehi Marino, ma come mai sei così piccolo? Sei Santiago 6? Sì, buonasera signor Marino, aspetta, dopo tanto comincio a sentirti. Ma stasera no, ma forse è rimasto in campagna. Eia, va bene, bella gioventù proprio, caspita. A proposito... Vabbè, no, quello è fatto passato, niente da dire. Non è entrato Pomponio nemmeno a salutare. Non è entrato Giulio, niente. Piuttosto, attenzione, Callaghan, sei all'ascolto almeno. Giulio, che te dice? Niente, non è nemmeno l'ascolto. C'è una persona, vabbè, Natalino, già lo sai, credo fosse all'ascolto almeno, ma non sembra che non ascolti manco più, non dà il colpettino importante. Ma questo non è Natalino. Sì, Bip ne ha quell'apparato. Non me ne ricordo nemmeno. Sentivo un Bip piccolino. Non so neanche se l'aveva, ma no, forse è stato lui l'altro giorno quando l'ho sentito, era di segnale, era 8. Bene, quasi quasi io mi mangio un po' di frutta, per far merenda a me, merenda all'ora di cena, e poi mi guardo un po' di TG, mi guardo anche le sorrisi e canzoni, mi guardo i film di stanotte. Se c'è qualcosa di interessante, bene, se no pazienza. Mi guardo qualche film mio alle 9. Poi vediamo se devo comprare qualcosa qua vicino. Ma mi pare che siamo a posto oggi. Cosa devi fare? Merenda devi fare. Vai a fare merenda. Ho detto appunto che... sempre meno gente entra, è un po' qua, vabbè, d'altronde ognuno ha problemi, cioè chi c'ha famiglia, chi c'ha da fare, e io non faccio la pannuta. Io qualche cosa ogni tanto già viraggio di qua, ma verso quest'ora in casa arrivo a Lutz, a Poggiarro, mangio e mi vedo anche figli. Quasi quasi vado, comunque lascio tutto acceso qua, io lascio acceso di solito finché prima di andare a letto spengono, sa che mentre pomponi o fare bip eccetera. E vabbè, dai, quindi lascio in ascolto, dai, vi saluto, mangio un po' di frutta che fa bene. Intanto c'è Marino che rientra adesso, dai, fate due chiacchiere, sono quasi le 8 meno un quarto, dai, là. Passate pure, ok? Ciao Marino, buona serata, buon tutto, salutami Marino quando rientra, ok? Sì, ciao Marco, ci sentiamo domani, ci sentiamo, ok, fammi bene. Ciao, ciao, ciao.